pubblico quesito posto in tema sul programma stampato, vero? Ma invece la conglobiamo con la discussione generale della giornata, quindi insomma i più diversi interventi sono per quel momento. Allora al professor Quaglioni la moderazione di questa riunione. Grazie. Ecco, allora ho l'onore di fungere da moderatore di questa seduta del nostro convegno, licet indignus, come si diceva benissimo una volta e come ogni tanto si dovrebbe tornare a dire magari anche oggi, e la prima relazione sulla diffusione del culto di Simone da Trento nell'Italia centro-settentrionale, se non vado errando, sarà tenuta da Anna Esposito. Vorrei dire qualche parola di presentazione per la dottoressa Esposito, che viene dall'Università di Roma ed è un'ottima conoscitrice del materiale archivistico romano, che ella ha frequentato sotto diversi aspetti, sia per quanto riguarda la storia della presenza ebraica a Roma e nel Lazio fra 3 e 400, sia per quanto riguarda la vita sociale e religiosa di Roma. Ha studiato la vita di gruppi e associazioni religiose, soprattutto femminili, se non sbaglio, di diverse confraternite, e ha lavorato anche nell'ambito dell'Associazione Roma nel Rinascimento a studi di notevole valore sulle biblioteche umanistiche, ricordo in particolare quello sulla biblioteca del cardinale Jean de Stutteville. Ecco, detto questo, do la parola alla dottoressa Esposito. Dunque, intanto il titolo è leggermente modificato rispetto a quanto scritto nel programma, perché riguarderà il culto del Beato Simonino e la sua prima diffusione, cioè particolare interesse al culto di Simonino a Trento, al suo primo impianto. Et volentes parere mandatis, ego notarius et idem vice commilito, ivimus ad dictum hospitale, et predictum cadaver per nos repertum fuit in dicto hospitali, super quodam altari. In questo modo, nei verbali dei processi agli ebrei di Trento, il giorno 27 marzo 1475, il notaio dei malefici del comune, Giovanni De Fundo, fornisce forse la prima indiretta testimonianza della devozione per il piccolo Simone, il bambino trovato morto il giorno prima presso la casa dell'ebreo Samuele e subito ritenuto non una comune vittima, ma un martire in odio alla fede cristiana. Intorno al suo corpo, collocato il giorno dopo nella chiesa di San Pietro, attiguo all'ospedale, come indicato nel Libro dei Miracoli da una postilla autografa dell'Inderbach, si era venuta immediatamente sviluppando una devozione popolare non contrastata dalle pubbliche autorità, anzi da queste particolarmente incoraggiata, specialmente dopo la prima sospensione dei processi, ordinata da Sigismondo d'Austria alla fine di aprile. Le ragioni dell'immediato proporsi del culto per il nuovo martire si devono ricercare, come ha evidenziato nelle sue linee generali André Vaucher, nello shock provocato nella mentalità popolare dallo spettacolo della sofferenza innocente. Per il popolo la vittima diviene immediatamente un martire, e quindi un santo, solo in virtù dell'effusione del sangue versato senza colpa. Nel caso di Simonino, l'emozione era ancora più profonda, perché l'opinione pubblica additava come autori del crimine gli ebrei, riproposti proprio nel corso del XV secolo, soprattutto dalla predicazione osservante, come i tradizionali nemici del popolo cristiano. A Trento, i sentimenti antiebraici non erano estranei almeno ad una parte della popolazione. La stessa credenza nell'omicidio rituale e nell'uso del sangue cristiano da parte degli ebrei era diffusa sia tra il popolo che nella corte vescovile e sembra condivisa dallo stesso Inderbach, almeno a quanto risulta dagli accenni nei verbali dei processi. Accanto alle risposte emozionali della gente comune si affiancano le motivazioni dottrinali su cui, da parte dell'Inderbach, viene giustificata la devozione al nuovo martire. In una lettera al cardinale Cristoforo della Rovere, il vescovo avvicina Simonino ai martiri innocenti, che, uccisi da Erode pro Cristo, sono venerati dalla Chiesa merito passionis martirii. Opinione largamente condivisa dai giureconsulti Bartolomeo Pagliarino e Giovan Francesco Pavini, e in genere dall'entourage vescovile. Questa concezione del martirio era invece fieramente avversata dal commissario apostolico inviato dal Papa a Trento per indagare sulla vicenda, il domenicano Battista dei Giudici, per il quale il martirio doveva essere un atto cosciente e volontario. In particolare negava che i bambini potessero essere ritenuti santi in quanto, per definizione, non potevano fare nessun atto di volontà, quindi non avevano nessun merito, anche se erano uccisi, perché non voluntas sed necessitas eos facit martires. Forse anche per contrastare perplessità di questo tipo e per dare maggiore spessore alla devozione e al culto di quello che viene comunemente definito nei documenti l'innocentissimus puerulus, verrà messa in particolare evidenza dal vescovo e dai suoi sostenitori l'analogia del martirio di Simonino con la passione e la morte di Cristo, tema questo su cui soprattutto insisterà la produzione letteraria e l'iconografia. L'imponente concorso di popolo nella chiesa di San Pietro per vedere e toccare il corpo del piccolo martire e i miracoli subito avvenuti per sua intercessione sono ricordati in primo luogo dallo stesso Hinderbach in alcune lettere dell'aprile 1475 al poeta triestino Raffaele Giovenzoni e soprattutto nella sua inedita e incompiuta Historia Beati Simonis Tridentini. In quest'opera, una vera e propria difesa del suo operato, della vicenda, il vescovo ricorda come il cadavere del bambino non potesse venire sepolto per l'opposizione dei cittadini ai quali cum corpus ipsius in nihilo putrescere aut olere sentiretur in vignum visum est illud subterrare, ma come egli si fosse astenuto dal manifestare qualsiasi pubblica forma di culto donec per facti evidentiam ac confessionem iudeorum expresse de passione pueri et eius morte per iudeus intentata constaret et id auctoritate apostolica permissum atque passio et miracula per sedem e andem approbata et confirmata forent. In realtà l'atteggiamento del vescovo non fu neppure nelle prime fasi della vicenda così equidistante come la sua storia vuol fare apparire. Egli non sembra aver nutrito dubbi sul fatto che un omicidio rituale fosse stato realmente commesso nella sua città da parte degli ebrei, e ciò risulta sia dalle testimonianze dei verbali processuali, che ricordano precedenti sospetti del vescovo in questo senso, sia dalla sua corrispondenza, di cui è, a mio avviso, particolarmente significativa la lettera inviata a Sisto IV il 30 giugno 1475, pochi giorni dopo l'esecuzione degli imputati maggiori, con il resoconto degli avvenimenti trentini e la prima richiesta informale della canonizzazione di Simonino, il cui tono, forse più che il contenuto, testimonia l'intima certezza del vescovo di aver fatto il proprio dovere. Le prove più dirette del suo immediato, costante interessamento alla devozione verso il nuovo martire sono però fornite da una fonte molto particolare, i rendiconti della cassetta delle offerte all'innocente fanciullo relativi al periodo aprile-agosto 1475. Questi registri, che dovevano essergli sottoposti con cadenza quasi settimanale, sono dal vescovo ampiamente postillati, soprattutto con l'indicazione delle spese effettuate con i soldi delle offerte. Se le entrate rendono ragione della diversa tipologia delle monete, indicative della varia provenienza dei devoti oblatori, marchi, fiorini renani, grossi di Norimberga, monete venete, grossi boemi, carlini, bolognini, eccetera, le uscite mostrano come prestissimo fosse stata messa a punto un'efficiente organizzazione devozionale. Lo testimoniano le articolate voci di spesa, che vanno dalla retribuzione ai due plebani della chiesa di San Pietro a quella per il provisor et curator corporis pueri innocentis, il prete Giovanni da Firenze, che si occupava non solo della sorveglianza ma anche della conservazione del corpo del fanciullo per mezzo di unguenti e aromi, ai compensi per il predicatore, i cantori, l'organista, il venditore di candele, alla beneficenza verso i genitori di Simonino. Non era dimenticata la committenza artistica, una tabula ad modum speculi picta cum duobus imaginibus reformanda ad representationem pueri et iudeorum ac passionis eius pro ut eidem designabatur, risulta commissionata dal Vescovo nel mese di maggio ad un pittore di Bressanone, forse da identificarsi con quel magisto preto pittore che alla metà di agosto veniva pagato da Ermanno Skindeleip, il suo camerario, pro tabula passionis beati simonis pro ut uccisus est a iudeis. Comunque, anche se nei primi tempi il Vescovo evitò realmente di pronunciarsi pubblicamente, le persone del suo entourage, sia molto intime, come appunto Ermanno, sia sottoposti di più modesta estrazione, come Martino Rompilancia, Sigismondo, suoi servitori personali, tutti citati più volte come testi agli interrogatori degli ebrei, compaiono frequentemente, sempre in qualità di testi, anche alla registrazione dei miracoli, che era iniziata, si può dire contestualmente, all'apertura dei processi stessi. Questi sono istruiti il 27 marzo, il primo miracolo è registrato il 31 marzo. Il libro dei miracoli, fatto compilare da Linderbach in vista della causa di canonizzazione, raccogliendo dichiarazioni giurate di fronte a diversi notai, e di cui sto terminando la trascrizione e lo studio, pur rimanendo una fonte di parte, fornisce molte notizie non solo sul contesto delle prime manifestazioni devozionali, ma anche sulla rapidità della tradizione dell'avvenimento e sulla diffusione del culto di Simonino. I primi 9 miracoli sono registrati in luoghi diversi della città di Trento e riguardano quasi tutti i cittadini trentini. Dal 22 aprile la registrazione avverrà stabilmente nella sacrestia o nella chiesa di San Pietro, dove era custodito il corpo del fanciullo. Nei giorni successivi e per tutto maggio, forse in non casuale coincidenza con il periodo di sospensione dei processi ordinato da Sigismondo, i miracoli si intensificano. Al 4 giugno, il giorno prima della ripresa degli interrogatori degli ebrei, sono già 39 e interessano non soltanto abitanti delle valli trentine, della Val Camonica, della Valtellina, di città come Brescia, tra le prime ad essere informata dell'accaduto dal medico Giovanni Mattia Tiberino, Verona, Vicenza, Venezia, Padova, Mantova, ma anche persone provenienti dai territori germanici. Diversi sono i miracolati tedeschi che dichiarano di aver sentito lodare le virtù del nuovo martire da pellegrini di ritorno da Roma, dove erano andati a lucrare l'indulgenza per il giubileo, o che erano romei loro stessi di passaggio da Trento. Sempre seguendo l'indicazione tratta dalle testimonianze dei miracolati, che cronologicamente arrivano alla fine di agosto del 1476, possiamo vedere come la fama del nuovo martire si fosse diffusa più a sud, a Parma, a Ferrara, nei territori estensi, nel Ducato di Urbino, a Todi. Tra le altre località dell'Italia settentrionale mi sembra interessante rilevare Treviso e Marostica, dove qualche anno più tardi si sarebbero riproposti analoghi episodi di infanticidio rituale, e quindi il culto di nuovi martiri, Sebastiano di Porto Bufolè e soprattutto Lorenzino da Marostica. Tra le tante generiche dichiarazioni di avere audito quod corpus Simonis martiris a iudeis martirizzati in Tridento, miraculis coruscabat, solo raramente vengono forniti maggiori ragguagli sull'apprendimento della nuova devozione. Oltre ai pellegrini, che per tutto l'aprile del 76, a causa del prolungamento dell'anno giubilare, continuavano a percorrere la penisola e ad essere così un importante veicolo di informazione, sono i frati e i predicatori itineranti, più o meno autorizzati, che diffondono i fatti di Trento. Ad esempio, nella nostra fonte è un certo frate Sancte Maria de Carminis de Brixia che spinge Francesco de Passirano, della diocesi di Brescia, a votarsi a Simonino per riacquistare la vista. Quest'ultima indicazione è interessante. È noto che i carmelitani di Brescia furono tra i primi ad interessarsi al martire trentino e ad esporne un'immagine nella propria chiesa, immagine che il 13 aprile del 1476 miracolosamente cominciò a lacrimare, onde, come tramanda il cronista bresciano Elia Capriolo, la città nostra vi concorreva anco di notte, con lumi accesi, a vedere tale miracolo. E non è certamente casuale che il 19 aprile il nostro Francesco fosse a Trento a testimoniare della grazia ricevuta. Ma la forma di pubblicità più diffusa ed efficace, sempre secondo la nostra fonte, è data da chi si è personalmente recato a Trento, richiamato dal clamore dei miracoli. Il caso del nipote di Giovanni Francesco della diocesi di Mantova, dato per annegato nel fiume Servio, è esemplare in questo senso. Il voto a Simone viene fatto su consiglio di un vicino che era arrivato dal corpo benedetto. Disse questo giovane, che aveva visto questo martire e i suoi miracoli, zitene in orazione, domandatilo de grazia al beato Simon che vel darà vivo. Così avvenne e il miracolo pictum et subscriptum venne sottoposto all'attenzione dell'Hinderbach che, come si legge sempre nel libro dei miracoli, scrisse immediatamente al marchese di Mantova per avere altre attestazioni dedicto miraculo pro ipsius miraculi maiore declarazioni. Probabilmente il foglio o forse la tavoletta con l'illustrazione di questo prodigio sarà finita insieme alle moltitudini dei signa lasciati dai devoti per le grazie ricevute o richieste. Sappiamo di bastoni, grucce, camicie insanguinate, armi poste dai miracolati presso l'altare di Simonino, insieme ad ex voto di cera o d'argento, riproducenti per lo più la parte del corpo colpita dal male o risanata. In particolarmente interessante è la storia, la registrazione dei signa d'argento. C'è nell'archivio di Stato di Trento un apposito registro dove vengono registrati la confezione e la vendita di questi ex voto, tra l'altro introdotti da un preciso contratto del vescovo Hinderbach che risulta fornire l'argento agli orefici che dovevano poi confezionare questi ex voto. E la cosa è interessante è che per ogni oncia lavorata di argento al Beato Simone, che ha proprio una voce sua in bilancio, devono essere dati, mi pare, ecco l'ho segnato qui, 4 libbre di monete meranesi, insomma, quindi una cosa proprio organizzatissima. Tra questi vexilla, valutati dall'Hinderbach nel febbraio 1478 a circa 3.000, dovevano esservi anche quelli di illustri personaggi, che compaiono a diverso titolo in questa vicenda. Miracolati si dichiarano il giureconsulto vicentino Bartolomeo Pagliarini, l'umanista Bartolomeo Platina, uno dei più accesi avversari del Ventimiglia nella Curia romana per questa vicenda che guariva dalla peste, il poeta triestino Raffaele Zovenzoni per la figlioletta Bartolomea. Si raccomanda a Simonino il cardinale Cristoforo della Rovere, che inviava una statua di cera, e qualche tempo dopo il fratello Domenico, che offriva candele pro acquirenda prole da parte di un suo fratello laico. Lo stesso Sisto IV, a detta degli ambasciatori trentini, sembrava si fosse votato a Simonino in occasione di un'infermità al braccio. Molto più severa è l'opinione del vescovo di Ventimiglia sul preteso martirio e sui miracoli e molto più disincantate sono, naturalmente, le sue impressioni sulla devozione al nuovo martire. Giunto a Trento il 2 settembre del 1475 in qualità di commissario apostolico, 4 giorni dopo riferiva al cardinale Stefano Nardini della visita al corpo di Simone. Eri cum reverendo domine episcopo, et multis alis civibus et canonicis fuimus ad videndum corpus pueri. Quod cum curiosus in specerem et episcopus moveret tibias, tantus fetor exhibit quod mi commota colera fuit, et parum defuit quim evomerim, sed me continui quantum potui. Non potui tamen tantum, quin me omnes et maxime familiares, qui magis meam naturam norunt, viderint alteratum mutato colore. Ipse quoque episcopus, videns me commotum, interrogavit si erat propter fetorem, respondi quod sic, et abiremus, quia sufferre non poteram. Ipse dixit quod similiter ei acciderat in principio, sed iam erat assuefactus. Dunc ego dixi, Domine reverende, miror vestra dominatio eum sic teneat discopertum, quod est horror videre, et quod melius esset, quod poneretur in alico arca. Ipse dixit, quod fecerat fieri capsella plombeam, sed populus noluit, quod inde removeretur. Miracula aduc nulla vidi, licet plurimos infirmos in via in vemerim redeuntes, non consecuto beneficio sanitatis. L'arrivo del commissario era stato presto seguito da un breve, inviato il 10 ottobre da Sisto IV a tutti i principi d'Italia, in cui si proibiva di dare a Simonino l'epiteto di beato, di predicarne pubblicamente la santità e di asserire che fosse stato ucciso dagli ebrei, di dipingere immagini rappresentanti il martirio, di scriverne o venderne la storia, come era avvenuto fino a quel momento. A dispetto di questo provvedimento, e proprio per ribattere alle critiche sulla sua condotta in questa vicenda, l'Hinderbach non risparmiò sforzi e mezzi per difendere i processi contro gli ebrei e per la beatificazione del martire, aspetti del resto strettamente legati, in quanto il martirio e quindi la santità di Simonino erano in rapporto diretto con la colpevolezza degli ebrei. Ed è molto importante seguire la cronologia di questi avvenimenti e infatti l'indicazione di Renata Segre stamattina, di questa nota nelle riformanze di Pinerolo, è molto importante perché l'agosto 1475 era un momento proprio, diciamo, di discrimine rispetto al cambiamento dell'Hinderbach pubblico nei confronti dell'esterno. Il vescovo, oltre a comporre gli stessi dei versi, un officium e, come abbiamo accennato, un'istoria del Beato Simone, sfruttò molto abilmente le sue relazioni, in primo luogo con giuristi ed umanisti. Dai primi, come abbiamo sentito stamani, ottenne allegaciones de consilia che circolarono sia manoscritte che a stampa. Una diffusione particolarmente vasta ebbero le consultaciones del teologo e canonista Giovan Francesco Pavini, da lui fatte stampare a spese dell'Hinderbach. La notizia, finora inedita e importante per le informazioni che offre su tempi, prezzi e finalità della produzione tipografica, è ricavata dalla corrispondenza degli oratori trentini a Roma. In una lettera del 20 febbraio 1478, Approvino degli Approvini informa il vescovo che «Dominus de Pavinis voluit allegationes factas in causa nostra quod imprimere facere, et uniquique cardinali, episcopo oratoribus, prelatis et alis, presentarem una copiam, ad eternam re memoriam reverendissime dominazioni vestre. Hoc negare sibi non potui e cum consiglio reverendissimi domini sancti marci, Marco Barbo, imprimere feci, et magister vitus impressor, quem paternitas vestra cognovit, impressit, nondum complete sunt. Erit expensa triginta florenorum de camera». Il primo luglio l'edizione era già pronta. La spesa era stata di poco superiore ai 30 fiorini previsti per più di 300 copie, che erano già state in parte distribuite. Anche carmi, poemi e storie, sia in latino che in volgare, italiano e tedesco, che Hinderbach sollecitò presso gli amici umanisti o da questi spontaneamente offerte, trovarono buona accoglienza, soprattutto presso i circoli più colti, e furono in gran parte riprodotte a stampa, per consentirne una più rapida e possibile vasta diffusione. Ricordo solo la produzione del medico Giovanni Mattia Tiberino, uno dei periti per la ricognizione sul cadavere di Simone. Egli compose, oltre a De Carbi, almeno due relazioni su questa perizia, indirizzate all'autorità e ai cittadini di Brescia, datate 4 e 17 aprile 1475, e pubblicate successivamente, e una narrazione più ampia sull'uccisione del bambino, che fu forse l'opera su questo tema più conosciuta del tempo e che contribuì in parte a confermare l'opinione pubblica nella tesi dell'infanticidio rituale. Significativo è il fatto che questa storia di Simone sia stata stampata per la prima volta a Roma dal tipografo tedesco Bartolomeo Guldenbeck in una data antecedente il 19 giugno 1475, quando apparve la seconda edizione della stessa opera, proprio il giorno precedente l'emanazione della sentenza e due giorni prima l'esecuzione a Trento degli ebrei imputati dei reati più gravi, e quindi qualche mese dopo una terza edizione, probabilmente anche per l'incetta scopo di distruzione che dovettero farne gli ebrei stessi. Anche la prima opera stampa trentina del 6 settembre 1475 ad opera del tipografo tedesco Alberto Kunne, corredata da 12 incisioni che traducono in immagine le parti essenziali del testo, contiene il racconto in lingua tedesca del martirio e della morte del bambino, di un autore anonimo ma sicuramente dell'entourage vescovile, se non addirittura lo stesso Hinderbach o più verosimilmente il suo Kammerer Ermando Schindeleip, come ha ricordato anche ieri il professor Chemelli. Schindeleip che risulta comunque curatore dell'opera. Le illustrazioni, presenti anche in altri incunaboli tedeschi dell'opera del Tiberino, servivano a rendere più immediato il racconto ed il messaggio in esso contenuto e a renderlo fruibile anche ad un pubblico illetterato. Per tutti erano poi disponibili singole immagini xilografate, sia con la raffigurazione del solo Simonino, sia rappresentanti la scena del martirio. Quest'ultime soprattutto utilizzate dall'Hinderbach, che di alcune dovette anche finanziarne la realizzazione, per sostenere la sua causa e diffuse dai suoi oratori negli stessi ambienti della curia romana. E quanto si evince da una lettera del marzo 1478 di Approvino, che richiedeva gli fosse inviato «Beatum Simonem de pictum, cum similitudine iudeorum, assistentium quando ipsum martirizabant, et similitudine omnio iudeorum ibi presentium, que plures fieri feci et presentavi, sed optarent videre actum et facem eorum. Unum feci fieri quando tenebant ipsum cum brachiis apertis, cum veste te caligis revolutis, cum tenaleis, cortello et tacubus, ab una parte Samuel, ab alia Moises. È facile immaginare il tipo di reazione che potevano indurre opere di questo genere e non solo sull'emotività del popolino. Se giuristi e letterati furono senz'altro veicoli importanti anche per la diffusione della fama di Simonino, il principale e diretto strumento di pressione e di divulgazione del suo culto fu costituito dai francescani osservanti. Certamente anche membri di altri ordini furono in relazione, anche molto stretta, con Linderbach per questa vicenda. Ad esempio il domenicano Enrico di Sletstadt, professore di teologia, che nel novembre 1475, come delegato del vescovo trentino, svolse un'indagine nella diocesi di Costanza per accertare altri casi di omicidio rituale e che il 16 gennaio 1476 amministrò il battesimo agli ebrei Iof e Mosè. Così l'agostiniano Silvestro da Bagnoregio, Sacre Teologie Magister, nel 1483 procuratore generale dell'ordine agostiniano, che scrisse le conclusioni su supercanonizzazione Beati Simonis Tridentini, pubblicate probabilmente a Trento tra il 1475 e 76, e che rimase legato al Linderba anche negli anni seguenti. Del 10 giugno 1477 è una gratifica del vescovo nei suoi confronti per i molti incommodis damnis et periculis protuenda veritate ex insidis iudeorum. Del 1478 la notizia data dall'Aprovino in una lettera da Roma che proprio frate Silvestro si era offerto di reperire i 2000 fiorini necessari per la causa di canonizzazione di Simonino. Rapporti più che cordiali, Linderbach intrattenne poi con il vescovo di Padova, Jacopo Zeno, lodato per il suo zelo per il culto di Simone, e che nel 1480 invierà a Trento le attestazioni giurate di miracoli avvenuti nel suo episcopato. Ottime relazioni intercorrevano pure tra il vescovo tridentino e quello di Feltre, Angelo Fasolo, nel gennaio del 1481 ufficialmente incaricato insieme a Pietro Bruti di istruire il processo per la beatificazione di Simonino, ma che già nel novembre del 76 incitava Linderbach ad agitandam causa beati Simonis. Ci troviamo però pur sempre nel campo dei rapporti personali, anche se importanti. Se invece esaminiamo il contributo dei francescani per la diffusione della devozione del nuovo martire, risulta evidente che gli osservanti, soprattutto quelli della provincia veneta di Sant'Antonio, si fecero carico della causa di Simonino come di una propria causa. Dal ministro generale Francesco Sanson al ministro provinciale Giovanni Pietro, dal vicario Francesco Raimondo ai predicatori itineranti, tra cui in primo piano il celebre Michele Carcano, tutti si dichiaravano a disposizione del vescovo trentino per convincere, trattare e soprattutto predicare la santità dell'innocente fanciullo. Del resto, la vicenda tridentina si adattava perfettamente ai contenuti antiebraici della predicazione osservante, dove la lotta all'usura si identificava ormai con la lotta ai suoi principali erogatori, gli ebrei, definiti come usurpatori delle substanze e succatori del sangue degli cristiani. I fatti di Trento, con il procedimento giudiziario ritenuto perfettamente legale dal Papa e dall'Imperatore, era lì a testimoniare che questa non era solo un'allusione retorica. La corrispondenza intrattenuta tra gli autorevoli francescani che prima ho ricordato e Linderbach, tutta pervasa di questo spirito, offre molti spunti per il nostro tema, che ora non vi è il tempo di approfondire. Ricordo solo le ricorrenti assicurazioni sulla costante predicazione relativa a Simonino e la richiesta di reliquie. A questo proposito, il vicario provinciale Francesco Raimondo, ringraziando il vescovo trentino per l'invio di un bicchiere d'argento contenente una porzione del sangue del martire, nel settembre del 1476, dichiarava come a Venezia egli avesse proclamato la santità di Simonino non solo un privatis colloquis, sed in publicis ad populum predicationibus, e come a Feltre e a Treviso e in altri luoghi, persuasi ostendique chatum illum in quo ab impis libatus fuit sanguis innoxius. Altre reliquie erano state portate personalmente a Padova dal ministro provinciale dei minori, offerte dall'Linderbach al vescovo Zeno e al ministro generale dell'ordine Francesco Sanson, che in quell'occasione avrebbe affermato di provvedere in futuro che anche rem in nostra religione ab omnibus predicatoribus magnificari. La carica eversiva di una predicazione di questo tipo, specialmente quando a praticarla era un oratore come Michele Carcano, si può valutare anche dai provvedimenti che prima l'autorità religiosa e quindi quella civile presero per arginarla. Non a caso, dopo quanto abbiamo detto poc'anzi, le autorità venete furono quelle che più di altri dovettero far fronte al fenomeno. Seguite da quelle lombarde, che pure videro nelle loro zone la già violenta campagna antiebraica degli osservanti accentuarsi dopo la vicenda trentina e utilizzare, sia nella predicazione che nell'iconografia, la vicenda di Simonino come manifesto politico, strumento di propaganda e mezzo di intervento sull'emotività popolare. I moti antiebraici che ne derivarono portarono a volte le autorità locali, il cui comportamento nei confronti degli ebrei fu spesso contraddittorio, a decretare immediati, anche se spesso temporanei, provvedimenti di espulsione, come nel caso, nello stesso 1475, a Salò, Orzi Nuovi, Bassano del Grappa, e negli anni seguenti in città come Brescia, Vicenza, Verona. Ma un'altra conseguenza, più grave, fu il proliferare delle accuse di omicidio rituale. Denuncia la grave situazione esistente in Lombardia una supplica presentata ai signori di Milano nel 1479 dagli ebrei del Ducato, in cui è riportata una impressionante casistica di accuse di questo genere. Vediamo così a sapere di fatti accaduti a Valenza, Montecastello, Bormio, Pavia, Renapò. In quest'ultima località gli ebrei sospettati, per li tormenti grandi a loro fatti, hanno confessato aver commesso quello di che erano innocenti. E se Dio per sua grazia non avesse mandato che il putto fosse ritrovato, sarebbero stati trattati peggio di quelli di Trento, che Dio sa se il fosse vero o no, pure sperano che Dio ne debba dare dimostrazione al tempo. Fu però nei territori veneti che in Italia si arrivò al culto di altri bambini ritenuti martirizzati dagli ebrei, i già ricordati Lorenzino da Marostica e Sebastiano di Porto Buffolè, e in questa circostanza anche ad un processo celebrato a Venezia, e ciò nonostante il ripetersi da parte della Serenissima di ducali a protezione degli ebrei, sia dalla predicazione osservante che dal fanatismo popolare. Esemplare il caso di Verona del 1481 che portò alla condanna dell'accusatore cristiano. La devozione di questi nuovi martiri innocenti, che rimase sempre circoscritta ai luoghi dove era sorta, si venne ad affiancare a quello che in altre località era tributata a Simonino, specialmente a Padova e a Venezia, dove si conservavano alcune sue reliquie e dove nelle rispettive chiese dei Serviti si vennero costituendo negli anni 1479-80 anche delle confraternite di laici sotto l'invocazione del martire tridentino. E già quindi nell'ultimo decennio del XV secolo, proprio per il fatto che la devozione a Simonino si decentra rispetto a Trento, si può registrare una diminuzione della frequenza dei pellegrini in questa città. Morto nel 1486 Linderbach, senza veder riconosciuta la santità del suo martire e acquietatasi la propaganda da lui alimentata, il culto di Simonino, che continua ancora a fine secolo a rimanere un modello sia per l'iconografia, e ringrazio Dominique Rigaud per le anticipazioni, che per la predicazione osservante, e ricordo ancora i sermoni di Roberto Caracciolo nel 1490, il culto di Simonino appunto si assesta anche localmente, ma senza più il concorso di tanti miracoli e prodigi, e con qualche stanchezza, di cui è certo una spia la praticamente totale assenza di pii lasciti nei testamenti dei trentini, che ho esaminato fino al 1500, solo un lascito su circa 50 testamenti schedati. È un campione molto piccolo, ma i protocolli notarili trentini sono andati quasi totalmente distrutti per il periodo che ci interessa. Ai pellegrini di passaggio da Trento si forniva una spiegazione davvero curiosa per giustificare con la rarefazione dei miracoli anche la mancata canonizzazione. La riporta nella sua relazione di viaggio, fatto nel 1497, Arnaldo di Arf di Colonia. Mi condussero in un'antica fabbrica, già sinagoga degli ebrei, sotto la quale passa un fiumicello nel quale fu ucciso il bambino, la cui madre, dimorando di rimpetto, essendosi di poi rimaritata, cessarono i miracoli operato dal piccolo martire, per cui il Papa ricusò di canonizzarlo. Grazie. Bene, ringraziamo la dottoressa Esposito per la sua ricca relazione. Io nel presentarla ho detto che si trattava di una studiosa particolarmente esperta nella frequentazione degli archivi di Stato, dell'archivio di Stato e degli archivi romani in genere, bisogna dire che ho dimenticato Trento, e come ci ha dimostrato con la sua relazione, contenente importanti novità, mi pare, sia sulla origine della tipologia delle immagini Sentiremo ora, invece, dalla dottoressa Dalprà e dalla dottoressa Rigaud quali sono le loro comunicazioni al proposito, sia sulla diffusione del culto per quanto riguarda soprattutto i veicoli rappresentati dai pellegrini e dai predicatori. Di tutte queste novità credo che poi presto la dottoressa ci darà conto anche nella introduzione preposta alla edizione degli atti dei processi che è in stampa appunto in questo periodo. Grazie ancora.